piaccio perché ti faccio ridere. E ti piaccio perché ti faccio piangere almeno un po'. Con me ti guardi dentro, perché no? Io posso farti volare in un cielo dove tu non sai. La tua vita come tu la vuoi, come tu la vuoi. Stato tra l'erba che aspetta la sua preda senza mai sapere se alla fine potrà gustarla o dovrà recedere. Dentro me saliranno tutti i dubbi di questo strano mondo, cinico e bastardo mondo. Na na na, cinico e bastardo mondo. Na na na na. Mi piace vestire bene, un po' de modè. Perché io sono di moda e questo piace a te, che sei sicuro.